monte paurose foreste, là dove una l'albera spera l'alba, o spera la scuola, la scuola, la scuola, dove la salma ti attende. O voce fatidica va, che ti implora, ballo, squilla, ballo, squilla, fa noi tutti fratelli da luna al mare. Viva la tua voce, campana, campana intessuta ai sospiri, perde e ritorna lontana per gli ampi stellanti zaffiri.